Pablo Picasso, raccontato da Matteo Caccia. Delle tante cose che si sanno di Parigi ce n'è una che si sa abbastanza poco, ed è che è gemellata in modo esclusivo e reciproco con Roma. In nome di questo gemellaggio si dice: solo Parigi è degna di Roma e solo Roma è degna di Parigi. Pablo Picasso ci arriva nel 1904 a vivere a Parigi, cioè ci arriva e si stabilisce definitivamente a Parigi, e va a vivere in un posto che era già famoso e lo diventerà ancora di più con la sua presenza. È il Bateau Lavoir di Rue Ravignan. È uno stabile che si trova al numero 13 di Place Émile Godeau, nel quartiere di Montmartre, a Parigi. È una stabile particolare perché già ci vivono diversi artisti, già di fama internazionale. L'immobile è un palazzo spartano, non ha servizi primari, non ha il gas, non ha l'elettricità. L'acqua arriva solo al primo piano. E gli appartamenti hanno delle pareti divisorie così sottili che gli ambienti sono freddi d'inverno, caldi d'estate, e soprattutto si sente tutto quello che accade negli appartamenti uno a fianco all'altro. È un posto molto affascinante in cui Picasso va a vivere e comincia a disegnare tutte le sue opere. A Parigi Picasso incontra anche una donna di cui si innamora e che comincia a ritrarre, Fernande Olivier, con la quale ha una relazione lunghissima, ed è lei quella che appare ritratta in moltissimi i quadri che sono quelli del periodo rosa. A Parigi Picasso rimane anche durante la Seconda Guerra Mondiale, cioè rimane durante l'occupazione dei tedeschi. In realtà il regime nazista disapprova il suo stile e lui quindi non può esporre, ma continua a rimanerci, e Parigi diventerà forse la sua vera città. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it.